Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Abbiamo ripreso da ieri la nostra regolare programmazione. Un altro bel tema ricorrente alla ripresa dopo le vacanze estive, naturalmente quello della scuola. Si ricomincia il 14 in gran parte delle regioni italiane, gli ultimi saranno invece i ragazzi dell'Abruzzo che inizieranno appunto dove le scuole riapriranno, se non ricordo male, il 21 settembre, ma naturalmente a Salva Danaio non si parla di tagli, di cattedre, di precari, ma di tutto ciò che attiene alla spesa che le famiglie sostengono all'inizio di ogni anno scolastico per il proprio figlio o i propri figli, fra libri e corredo di penne, quaderni annessi e connessi. C'è la ricorrente polemica sui tetti di spesa fissati dal Ministero dell'Istruzione, c'è la caccia al risparmio per le famiglie che devono fare un bel investimento in questa parte dell'anno, e le associazioni dei consumatori che parlano in questa parte appunto dell'anno, in questa fase, della consueta stangata che però noi siamo sicuri si può evitare se si adottano anche comportamenti di buon senso che a volte non siamo in grado di adottare pur di accontentare i nostri bambini, i nostri ragazzi. Poi comunque la spesa per il corredo dei libri in certi casi è imprescindibile, cercare i risparmi è un po' complicato a meno che non ci si rivolga ai mercatini dell'usato, ma molto spesso anche lì insomma bisogna vedere che fino a che punto può essere garantita la qualità dei testi. Insomma, ci sono tanti aspetti da affrontare. È un bel tema sul quale invitiamo le famiglie in ascolto ad intervenire, così magari raccontandoci che tipo di spesa viene prevista quest'anno a seconda ovviamente della scuola che i propri ragazzi devono frequentare. Allora chiamateci all'800 24 00 24, stamattina metteremo a confronto le vostre considerazioni con quelle di Luigi Del Marro, presidente della Federazione Nazionale Cartolai, di Mario Rosconi, presidente del Liceo Newton di Roma, vicepresidente vicario dell'Associazione Nazionale Dirigenti e altre professionalità della scuola, Angela Nava, presidente del Coordinamento Genitori Democratici, e Piero Fichter, responsabile della sezione scolastica dell'Associazione Librai Italiani e responsabile anche del Libraccio. Il numero verde ve l'ho ricordato, ve lo ricordo ancora, 800 24 00 24, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666. Giornata interessante per la borsa. Dopo i cali di ieri, stamattina l'Europa ha provato a risollevare la testa, ha provato in avvio un rimbalzo che era anche piuttosto deciso. In qualche caso alcune piazze si sono avvicinate ad un punto percentuale di progresso, ma a metà mattinata segno meno di nuovo ovunque. A metà seduta abbiamo un quadro che è negativo a Francoforte, che sta perdendo l'1,54%, a Parigi che sta perdendo lo 0,8%, Londra ieri chiusa, oggi riprende le contrattazioni con un calo, -1,10%, Milano -1,54%. Sulle FTSE MIB. Provavano a risollevare la testa stamattina i titoli del settore bancario, ma è proprio invece il comparto bancario a scendere di nuovo pesantemente. Ci ha ripensato, infatti, a trascinare giù Milano ci sono di nuovo UbiBanca, -3,13%. Il peggior titolo è però Mediolanum, -3,57%, male anche CIR, -3,21%, Pirelli, -3%, Autogrill, -2,68%. Pensate che era il miglior titolo in avvio stamattina, a rapidamente perso tutto, collocandosi addirittura fra i peggiori titoli della giornata. -2,5% anche per Enel, per Italcementi, per Geox, -2,38% per Impregilo, -2% abbondanti per Bulgari, Buzzi Unice, Meccampari, Fondiari, Intesa San Paolo, Unicredit, Prismian, insomma tanti titoli. Con il segno più abbiamo in questo momento solo due titoli, sono STM +1,91% e il Banco Popolare, l'unico titolo che rimbalza con un po' più di decisione, con decisione +0,7%. -0,2% per Eni, Fiat -0,67%. Questi sono i temi che stanno contraddistinguendo la seduta di Milano. Oggi arrivano dagli Stati Uniti molti dati economici e abbiamo un euro sul dollaro che è a quota 1,4314. Stamattina l'euro era partito a razzo sul dollaro fino ad arrivare a qualcosa come 1,4380, adesso ripiega, ma abbiamo un livello piuttosto sostenuto. Petrolio a $70, dopo lo scivolone di ieri ha recuperato la soglia dei 70. Direi che questi sono i temi della seduta, li possiamo anche lasciare per andare invece al tema di Salva Danaio di questa mattina. Per le famiglie è partita la consueta caccia allo sconto, obiettivo i libri scolastici a prezzi ridotti contenuti. Ci sono molte formule d'acquisto proposte da realtà diverse, dalle librerie ai supermercati, troppo poco comunque secondo i genitori e le associazioni dei consumatori. Sentiamo la nostra scheda. Settembre, si ritorna sui banchi di scuola. E se la campanella dell'anno scolastico non è ancora suonata, l'allarme Caro Libri è già scattato. Il tetto di spesa per i libri, fissato dal Ministero dell'Istruzione per limitare l'esborso delle famiglie, viene infatti superato, secondo le principali associazioni dei consumatori, da una scuola superiore su due. Un fattore che si traduce in una spesa di 355 euro in più per il primo anno di liceo, più 14,3% rispetto al tetto medio fissato, mentre per gli istituti tecnici la spesa media sarà superiore del 10,9% e per quelli professionali del 9,2%. Sforamenti anche nelle scuole medie, dove il primo anno costerà circa 310 euro, l'8,3% in più di quanto previsto dal Ministero. Secondo le associazioni dei consumatori, in particolare ogni famiglia dovrà sostenere una spesa media di 450 euro l'anno per ogni figlio. Cifra che sale a 7-800 euro se si considera anche l'acquisto del corredo scolastico, quale zaini, astucci, penne e matite. Ma se su questi ultimi si può fare economia, mantenendo per esempio lo stesso zaino per diversi anni, lo stesso non si può fare con i libri di testo. Esistono però alcuni accorgimenti da adottare che consentono alle famiglie di tagliare le spese per l'acquisto dei libri, come recarsi al mercatino dell'usato, che fa risparmiare circa il 50%, richiedere i libri in comodato d'uso agli istituti scolastici dove si è iscritti o scaricare i testi, se disponibili, dal web. Allo stesso tempo il Ministero dell'Istruzione ha assicurato che terrà gli occhi aperti e ha promesso che nel prossimo triennio, con i provvedimenti adottati, la spesa sostenuta dalle famiglie per comprare i libri di scuola calerà del 30%. E allora, quanto vi costerà, mi rivolgo alle famiglie italiane, questa ripresa della scuola? Quanti figli dovete mandare a scuola, soprattutto che scuole frequenteranno, e qual è il budget che avete destinato anche al corredo scolastico, perché quella è, come dire, quello è l'ambito di spesa nel quale si può risparmiare qualcosa, ricorrendo ovviamente, dicevamo prima, ad atteggiamenti di buon senso, magari non cedendo ai figli che chiedono zaini griffati e quant'altro. Ma questo è solo uno degli aspetti del problema. C'è poi, come dire, tutta la spesa legata comunque ai libri che va sostenuta, e allora qui magari la ricerca del risparmio è una strada un po' più complicata. Saluto i nostri ospiti, rapido giro di saluto. Buongiorno a Luigi Del Marro, presidente della Federazione Nazionale Cartolai. Del Marro, benvenuto a Salvadanaio. Grazie, benvenuto e saluti tutti, gli ascoltatori. Bentornato Mario Rusconi, preside del Liceo Newton di Roma, già con noi l'anno scorso per discutere ancora di questo problema. Ci piace molto la sua opinione. Preside, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Benvenuto a Piero Fichter, responsabile sezione scolastica dell'Associazione Librai Italiani, ma responsabile anche del Libraccio. Questa è un'organizzazione che conosciamo piuttosto bene, perché è una storica catena specializzata nel mercato dell'usato, e chissà quanto sarà frequentata in questo periodo. Fichter, buongiorno. Buongiorno. Ma io volevo partire con i genitori, con Angela Nava, presidente del Coordinamento Genitori Democratici. Benvenuta a Salvadanaio. Presidente, qual è la sensazione dei genitori quest'anno e delle famiglie? Hanno ragione le associazioni dei consumatori che in questa parte dell'anno lamentano il consueto arrivo di una stangata molto pesante per tutti i genitori italiani? La stangata c'è, ma c'è un po' come tutti gli anni. Io sarei un pochino più cauta sull'aumento del costo del libro di testo. Mi sembra che l'aumento sia imputabile questa volta ad una sorta di furbizie, chiamiamole così, alle virgolette, della scuola, vale a dire il gran numero di testi consigliati. Cioè si tiene il prezzo indicato dal Ministero, tra l'altro le modalità che il Ministero aveva dato quest'anno, cioè il Ministero ha un software per cui quando venivano registrati i libri, se si sforava i dati non venivano accolti. Allora si aggira l'ostacolo e ci sono una serie di testi consigliati, e di fronte al testo consigliato scattano una serie di atteggiamenti. In genere il genitore dice: se sono consigliati saranno anche utili, indispensabili. Ed ecco che il tetto rispetto alle previsioni si alza, quindi la stangata c'è. È anche vero che è una spesa prevedibile e prevista, insomma, dalle famiglie italiane. Mi verrebbe da dire soltanto una cosa, che in tempi di crisi probabilmente si può trasformare, io mi consento un ottimismo in tempi così duri, in una sorta di risorsa. Sicuramente può rinascere, ecco, una forma di solidarietà tra gli stessi genitori. Le esperienze, quelle poi sa tipicamente americane, stanno comunque funzionando, quelle dei gruppi d'acquisto. È vero. Noi stiamo scoperto questa nuova modalità di fare la spesa in gruppo per altre, per altre categorie, merceologiche, la spesa, al supermercato, si va dal farmer market. Per la scuola, diciamo, questa è un'esperienza non ancora affrontata in maniera adeguata? Non ancora affrontata, se non che a macchia di leopardo in alcune zone, però mi sembra significativa, ma significativa anche perché poi è produttrice di una cultura diversa in qualche modo, no? Davvero ristabilisce un legame di partecipazione, solidarietà. Che in Italia appare dimenticato. La voglio interrompere subito, perché io non so se questa mattina sono gli astri che ci vengono incontro, ma ci hanno fatto pescare come primo ascoltatore proprio un genitore che vuole raccontarci un'esperienza in questi termini, ma che non si è potuta condurre con successo proprio per il rifiuto di altri genitori di fare un acquisto in blocco. Stefano da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Vede, abbiamo proprio preso la palla al balzo, sì. La mia brevissima esperienza: io sono il papà di due bambini, maschio e femmina di 11 anni, sì, che hanno finito le elementari, quindi andranno alle medie. Io quest'anno di libri per la prima media ho speso 485 euro di entrambi. Per entrambi o a testa? No, per entrambi. Sì. Faccio un esempio: io ho fatto l'acquisto dei libri, non faccio nome per non fare pubblicità, comunque in una grossa catena di supermercati a livello nazionale. Sì. E ho risparmiato il 12%. Mi hanno anche regalato due bellissimi zaini, che cosa? Astucci, quaderni, diari, dizionari in inglese, perfetto. Uno per bambino. Io l'anno scorso vi ho fatto la proposta, io abito in provincia di Verona, di fare un gruppo d'acquisto di tutto materiale al di fuori dei libri, quindi zaini, penne, matite e quant'altro. Mi ero anche informato in una grossa cartoleria qua della provincia di Verona e c'era un risparmio che arrivava al 60%. La metà è stato rifiutato. Mi ha reso così triste, ma così triste. lo credo. Soprattutto il suo portafoglio si sarà intristito al massimo, Stefano. In ogni caso, lei l'anno scorso ha avuto questo rifiuto, quest'anno ci ha riprovato, visto che i suoi bambini iniziano un'avventura nuova? Non conoscendo adesso ancora i genitori, è un po' più complesso magari. È molto più complesso. I genitori purtroppo non fanno adeguare i propri figli al ritmo della società di adesso. E quindi io conosco famiglie, ma le conosco personalmente, che comprano lo zaino griffato, che comprano i quaderni griffati, che comprano tutto ciò che è di marca e poi non hanno i soldi per pagare il mutuo. Ecco. Perché il figlio deve andare a scuola non con lo zaino tale. I miei bambini hanno lo zaino, e quest'anno sarà ancora quello, che avevano in prima elementare. Un ottimo zaino di un'ottima marca e va ancora benissimo. Del gruppo d'acquisto. Ma ci riprovi l'anno prossimo, Stefano, non sia mai che magari, data la crisi economica, anche qualcuno potrà anche ripensarci, anche se avrà modo di confrontarsi poi con genitori completamente diversi. Comunque, Nava ha sentito, non si riesce sempre con successo a portare avanti anche iniziative lodevoli come quella di Stefano. In ogni caso il discorso si può sicuramente riprendere. Angela Nava del Coordinamento Genitori Democratici diceva: la stangata c'è, perché ovviamente anche se si compra tutto ciò che ha massimo risparmio e si cerca di contenere al massimo comunque la spesa, se si hanno due bambini da mandare a scuola, magari uno deve andare alle medie, uno inizia un percorso nuovo in un istituto superiore, è chiaro che qua il bilancio ne risente. Volevo però subito approfittare della disponibilità di Mario Rusconi, presidente del Liceo Newton di Roma, vicepresidente vicario dell'Associazione Nazionale Dirigenti e altre professionalità della scuola, perché volevo sentirlo sulla questione del gran numero di testi consigliati che in qualche maniera aggira la questione del tetto di spesa fissato dal Ministero per la dotazione dei libri dei nostri ragazzi. È così? Ha ragione la Presidente dei Genitori Democratici? Guardi, vorrei esprimere una nota positiva e una forse meno positiva, negativa. La prima nota positiva è il fatto che da quest'anno si sta estendendo nelle regioni, nel Lazio, la mia regione, in Piemonte, nel Veneto, il comodato d'uso, cioè la regione stanzia per quanto riguarda le scuole una certa cifra che le scuole possono utilizzare solo per comprare dizionari, atlanti, libri di testo che saranno dati ai ragazzi con l'obbligo poi di restituirli a fine ciclo. Questa mi sembra una cosa estremamente positiva, anche questo dovrebbe essere federalismo fiscale, se ben inteso, e potrebbe significare veramente un abbattimento dei costi. Ma tra l'altro sono anche un'iniziativa che tra l'altro da molti anni molte associazioni dei genitori propongono, non sono mai riuscite ad essere condotte in porto con successo, guardi, quest'anno si è partito. A me è arrivata l'altro giorno, proprio è arrivata anzi ieri, proprio la circolare del mio comune, il comune di Roma, che utilizzando i fondi della regione Lazio già nella mia scuola avremo qualche cosa come 10.000 euro che abbiamo già pensato di destinare per esempio per comprare i vocabolari di latino dei ragazzi del primo anno, quindi mi sembra un'iniziativa molto lodevole. Una spesa che poi le famiglie possono comunque risparmiare di fare, visto che questo è un testo che è la scuola che mette a disposizione. Esatto, la nota diciamo così negativa che secondo me dovrebbe essere messa in risalto, le assicuro che io non ho un'azione in nessuna casa editrice, neppure in quella... Sì, perché voi insegnanti tra l'altro anche questa polemica dovete affrontare spesso. Sì, e questo fatto, cioè il fatto del meravigliarsi che ci siano testi consigliati, io mi meraviglierei se non ci fossero testi consigliati, cioè la scuola deve consigliare la lettura, deve consigliare lo studio, in più dico, un iPhone viene a costare più di tutto il corredo scolastico di un ragazzino di scuola media del primo anno. Le assicuro che ormai i telefonini li hanno da 8-9 anni, ma non solo nelle zone ricche nei quartieri diciamo benestanti, anche nelle zone più periferiche. Cioè, mi sembra che anche tutta questa polemica sui libri di testo sia un po' indicativa della sottovalutazione che l'opinione pubblica ha del problema a scuola, un po' della disistima che si ha nei riguardi del problema a scuola. Non compare nulla sul fatto che un paio di scarpe di una nota marca vengono a costare 350 euro e li hanno ormai tutti i ragazzini, ricchi o semiricchi che siano. Nessuno si meraviglia del costo dei telefonini, gli italiani abbiamo visto l'altro giorno le statistiche sui telefonini. Ho letto che ci sono degli zaini nuovi con lettore MP3 incorporato che costano 129 euro, quindi magari qualcuno si presenta a scuola anche con questo. La polemica sul fatto se una scuola ha indicato oltre Manzoni il fatto di leggere Petrolio di Pasolini oppure un altro testo. Io cado dalle nuvole perché essendo nella scuola da tanto tempo, cioè da sempre, mi hanno catturato a 5 anni, non sono mai più scappato purtroppo dalla scuola, dico ma ben venga la scuola che mi dà indicazioni di questo tipo. Certo, capisco che c'è un problema economico, capisco che la scuola con le biblioteche scolastiche può provare a ridurlo, che le regioni se invece di sprecare delle volte dei soldi diffondono un'iniziativa del comodato d'uso si può venire incontro all'opinione pubblica. Oppure si potrebbero rendere anche detraibili le spese per l'acquisto dei libri, dalle tasse, ci sarebbero tante. Ma non facciamo polemica sul fatto che le scuole indicano libri da leggere. Questo mi sembra un oscurantismo preilluministico. Posizione condivisibile, ovviamente data la sua posizione, poi risentiremo ancora Angela Nava del coordinamento genitori, se voleva specificare ulteriori aspetti rispetto a questa sua presa di posizione iniziale. Detto questo, chiaramente non tutte le famiglie permetteranno ai figli di comprare kit scolastici stracostosi e grifati. Luigi Del Marro, magari qualcuno prenderà anche come assolutamente valido il suggerimento che la Federazione Nazionale Cartolai dà da qualche anno a questa parte, cioè quello di comprare il kit scuola, al massimo spende 20 euro, anzi addirittura quando lo avete pensato e messo in commercio 2-3 anni fa ne costava addirittura 25, siete riusciti ad abbattere ulteriormente il costo di questo kit. Che cosa c'è? Prodotti di qualità, non griffati sicuramente, ma accontentano lo stesso anche i gusti dei nostri ragazzi? Non soltanto accontentano i gusti, ma risolvono e assolvono la funzione proprio dello studio della scuola, perché certo la griff è quella cosa che dà quel valore in più e qui lei già l'ha evidenziato, sono purtroppo i genitori che cedono a questa situazione. Il cartolaio mette in vendita, perché ha una clientela diversificata, i prodotti per tutte le borse. E c'è da dire che il kit scuola, lo scuola kit che noi stiamo portando avanti da circa 8 anni, che ha avuto un grande successo, sostanzialmente non è che è un prodotto preconfezionato, ma è un'idea di dire scegliti dal cartolaio prodotti di qualità marcati, quindi parliamo di marche di qualità, non griffati, che sono disponibili, che debbono in questo quantitativo non costare più di 19,90 euro. Uh-huh. Quindi non è che uno deve subire per forza una certa cosa, no, anche perché al nord andrà, non so, una marca di quaderni di un certo tipo, al sud un'altra, no? Quindi viene, diciamo, personalizzato proprio per le esigenze dello studente. Cosa abbiamo in questo kit del Marro? Prego? Cosa abbiamo in questo kit? Tanto allora, per magari dare un suggerimento alle famiglie che ancora non lo hanno comprato, allora magari sono rimaste indietro con questa spesa. Certo, allora ci sono tre tipologie. C'è il kit per le scuole elementari, per le scuole medie e per le scuole superiori. L'elementare comprende uno zaino, un diario, un astuccio però a zip, però completo di tutto quanto l'occorrente, quindi matita, penna, gomma per cancellare, temperino, colori, pennarelle. Poi ci sono due quaderni a righe, due quaderni a quadretti, maxi quelli grandi, un quaderno ad anelli e due evidenziatori, oppure in alternativa un collo a stick. Questo e questo, cioè, è tutto quello che serve per partire. Io adesso la devo fermare perché abbiamo già la prima pausa, poi le farò naturalmente anche spiegare in che cosa consistono gli altri kit per le altre scuole, però insomma abbiamo capito che c'è tutto quello che è indispensabile per partire per l'anno scolastico, dopodiché chiaramente le spese proseguono. In ogni caso si può contenere la spesa per quello che riguarda il corredo scolastico, ma nella seconda parte di Salvadanaio vorrei tornare poi sull'aspetto invece legato all'acquisto dei libri, perché questa è la spesa sicuramente più importante. Su quaderni, astucci e penne i genitori possono anche un po' lottare con i figli, sui libri ovviamente un po' meno. Oggi Salvadanaio torna su un tema classico per quello che riguarda questo periodo dell'anno. Siamo a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, allora le famiglie italiane stanno mettendo mano al portafoglio per dotare i ragazzi che andranno a scuola, inizieranno tra pochissimo, si inizia il 14, del corredo scolastico necessario per iniziare e soprattutto del corredo dei libri di testo che sarà necessario utilizzare a seconda della scuola prescelta, ma ci sono anche le scuole dell'obbligo e soprattutto questo aspetto riguarda ovviamente le scuole medie, perché per quello che riguarda le elementari i libri non si pagano. Allora, è stata proprio la settimana scorsa questo argomento ad essere su tutti i giornali, perché ci sono state le stime sulla spesa per i libri che dovrà essere sostenuta quest'anno dalle famiglie italiane. C'è stata appunto questa indagine che è stata fatta da Federconsumatori e Adusbef e le stime su questa spesa sono le più diverse. La spesa sfiorerà i 900 euro a figlio, titolava il Messaggero e poi titolavano anche gli altri giornali, stangata in vista, zaini e diari con l'aumento per il Codacons più 5%, ma si può risparmiare. Allora noi stamattina stiamo cercando anche di orientare le famiglie italiane ad atteggiamenti e comportamenti di buonsenso per certe spese, per altre è un po' più difficile la strada da percorrere. Piero Fichter, responsabile sezione scolastica dell'Associazione Librai Italiani e responsabile del Libraccio, una storica catena specializzata nel mercato dell'usato, offre anche sconti del 40-60% sul prezzo di copertina. Quante famiglie frequentano la vostra catena in questo periodo dell'anno? Beh, ovviamente tante. Quest'anno un po' più degli altri anni, Fichter? Ma sì, perché i primi a non rifiutare l'usato sono gli extracomunitari, che ormai incidono in maniera importante, soprattutto nelle grandi città. Quindi ormai il 25% delle classi sono extracomunitari. E quindi diciamo che per bilanci familiari hanno necessità di rivolgersi a voi, però non spesso, non sempre è un ripiego dovuto anche a cattive condizioni economico. La nostra catena, quando è nata 30 anni fa, è stata il primo ceto che l'ha accettata e coccolata è stato il ceto medio, non l'operaio come era nella nostra intenzione. Non si vergognavano i figli della Milano bene ad andare a scuola col libro usato, anzi faceva un po' moda. Era anche una tendenza, insomma, sì, era trendsetter addirittura a comprare il libro usato da Libraccio. Ma a parte questo, che risparmio permette per esempio l'avvio di un anno scolastico, non so, in un liceo classico, venirvi a trovare? Ma dunque tenga presente che nelle scuole, più le scuole sono non aggiornate, quindi il classico è un esempio, più c'è probabilità di trovare i libri usati, perché non vengono cambiati, non vengono aggiornati così spesso. Più la scuola è nuova, più la scuola sono corsi partoriti. avanti negli ultimi anni con le varie riforme, e più il libro ovviamente segue queste novità, quindi cambia. Sì, però dobbiamo ricordare anche che quest'anno è stato introdotto l'obbligo per gli editori di mantenere invariato il contenuto del libro almeno per 5 anni, e questo dovrebbe permettere alle famiglie appunto di poter frequentare magari un po' di più questi centri che vendono a prezzi scontati libri usati. Preside Rusconi, a voi piace questa iniziativa? Ma sì, senza alcun dubbio, il fatto del poter poi contare nel corso degli anni sulla, diciamo, una certa stabilità del libro di testo dà diciamo anche maggiori garanzie alla scuola stessa. Io come preside da anni vado perorando tra i miei insegnanti la causa del libro di testo che duri più anni, perché ci sono anche dei comportamenti anomali delle case editrici, va pure rilevato. Tenga per conto per esempio di un testo di latino famoso del biennio del ginnasio, dei primi 2 anni dello scientifico, che esiste da quando ero io studente, grosso modo terza guerra punica direi, quel testo, che non è variato come contenuti, varia costantemente ogni 2-3 anni come numero di pagina degli esercizi e come inversione degli esercizi, e questo mi sembra un'operazione, diciamo, come dire, poco etica. Questo fatto del poter continuare a vendere un testo di valore, ma semplicemente impedendo che si possa utilizzare il fratello, magari il libro del fratello di 3-4 anni più grande, insomma. Infatti, ecco, magari sono, a volte l'usato lo si fa girare, esatto, anche in famiglia. Ci sono anche delle anomalie delle case editrici che chiaramente vanno anche, diciamo così, biasimate. Però ripeto il concetto, che secondo me un po' tutta la polemica sui libri di testo nelle scuole, sul fatto stesso, come diceva prima il simpatico ospite precedente, che fra le classi abbienti poi correva l'uso di avere testi usati, è anche indicativo un po', ripeto, della disistima che si ha per quanto riguarda la scuola in generale, la cultura in particolare. Insomma, non voglio fare retorica, ma il fruscio di pagine di un testo nuovo, ancora odoroso magari di stampa, è qualche cosa che secondo me non va fatto dimenticare. Presidente, io tra l'altro me lo ricordo benissimo, è la stessa identica immagine che lei ha usato lo scorso anno sempre da questi microfoni, quindi io capisco benissimo quello che lei pensa su questo. Il problema è che a volte anche questo desiderio di così sentire l'odore del libro deve passare in secondo piano quando il bilancio della famiglia, che ci deve permettere di andare a scuola, poi ci deve permettere, io ormai anch'io non dico la guerra punica, ma poco lì, e insomma, se per la famiglia diventa una spesa complicata anche quella, è chiaro che bisogna dare modo alle famiglie di trovare altre strade, perché magari a volte si vuole anche continuare a mandare il ragazzo a scuola e lo si fa con grande difficoltà, diventa allora, come dire, anche una questione complicata da affrontare tra padri e figli. Non vorremmo mai che soprattutto nel 2000 fosse così, allora cerchiamo, ripeto, di magari odorare meno il testo che dobbiamo utilizzare, di studiarlo il testo, magari un testo che è stato utilizzato da qualcun altro, a patto che però sia ben conservato, ficter del libraccio. Voi per esempio fate un controllo sullo stato di salute del libro prima di metterlo in vendita, immagino? Ovviamente, soprattutto per i testi delle medie e del primo biennio, evitiamo e rifiutiamo i libri particolarmente scritti, sottolineati troppo, gli esercizi non fatti a matita, quelli chiaramente li scartiamo perché porterebbe un disagio dalla persona che lo compra. No, tra l'altro questo mi veniva anche da suggerire, magari per chi compra ex novo il corredo scolastico e magari negli anni successivi vuole liberarsi di qualche libro perché magari occupa anche troppo spazio in casa, che lo conservi anche bene, perché poi ecco, in queste organizzazioni li si ricopre, perché ovviamente poi voi li ricomprate dalle famiglie, immagino, Fichter. Sempre, chiaro. Certo. Ovviamente. Benissimo, allora vorrei, devo continuare a sentire Luigi Del Marro con il kit scuola, con tutta la dotazione essenziale per iniziare l'anno scolastico. Ci sono però anche altri genitori che vogliono intervenire, devo risentire anche Angela Nava dei Genitori Democratici, insomma stamattina una puntata bella ricca. Francesco da Catanzaro, benvenuto tra di noi. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono un genitore di una bambina che va al quinto ginnasio quest'anno e un bambino che va alla seconda media. Mm-hmm. Ero molto stato colpito favorevolmente dall'annuncio, sottolineo annuncio, del ministro Gelmini che ci sarebbe stata una moratoria per 5 anni, come avete detto, sì, per gli editori, per permettere che i testi almeno per 5 anni siano mantenuti gli stessi. Però il 1° settembre, oggi, torno dalle ferie, mi reco alla scuola per prendere l'elenco dei libri e mi trovo la solita solfa, cioè mia figlia 12 libri ex novo da comprare e mio figlio 10 libri da comprare. Quindi io mi ricordo che anche altri anni con altri ministri, quindi non faccio un fatto personalizzato con la Gemmini, c'erano questi annunci di blocco, di moratori, di libri da riusare, ma poi è solo un effetto annuncio. Poi dopo nella realtà dei fatti ci troviamo a confrontarci con questo fatto. Io pensavo che il primo anno di liceo di mia figlia l'anno scorso ho fatto un esborso notevole, quest'anno praticamente deve rifare quasi la prima media l'anno scorso, quest'anno la seconda media, quindi questi blocchi, queste moratorie sono così tanto per annunciare, poi nei fatti nessuno controlla che non vengano realizzati. Grazie Francesco. Sentiamo allora un altro genitore, Angela Nava, coordinamento genitori democratici, magari se ci sa dare qualche precisazione in più rispetto a questo vincolo posto dal Ministero dell'istruzione sull'acquisto dei libri, che dovranno durare per 5 anni, parte da quest'anno questa nuova normativa? Esatto, i prossimi anni, Angelo. Gli effetti, se ci saranno, insomma, si avvertiranno in futuro. Soltanto una precisazione sui testi consigliati, figuriamoci d'accordo con Rusconi, sull'inversione culturale che poi un po' tutti dobbiamo dare, figuriamoci. Tuttavia, io tra i testi consigliati ho esaminato, non si mette il libro appunto che diventa l'approfondimento perché è bello, perché lo decidiamo insieme, perché condividiamo il fare un percorso, ma se trovo le versioni di latino, il libro di versioni di latino come testo consigliato, lo devo comprare, parliamoci chiaro, insomma, no? A meno che non si lavori nottetempo negli uffici dei papà come fotocopia, altra grande risorsa, insomma, che in qualche modo in questi anni è stata adottata, ma questo era soltanto un inciso. La stessa, cioè, sono convinta che ancora è una polemica, possiamo, come posso dire, che dovremmo in qualche modo ridimensionare, perché in molte case italiane sono gli unici libri che entrano, e quindi tutto sommato questo valore glielo dobbiamo dare. A noi è piaciuta molto un'iniziativa che si è appoggiata anche alla nostra associazione, di un istituto tecnico di Brindisi, in cui c'è stato un lavorio fortissimo del collegio docenti, che è riuscito a produrre una sorta di dispense per gli alunni del primo anno. La scuola offre anche lo zaino, ed in questo caso, essendo lo zaino generalizzato per tutti gli studenti di questa scuola, finisce per essere un segno di identità. Quindi la corsa al consumismo o la rissa padre-figlio rispetto allo zaino griffato viene in qualche modo spenta e attutita dal fatto che in quella scuola tutti usano quello zaino. È molto importante che anche un messaggio di questo tipo arrivi anche dalla scuola, quindi deve arrivare prima di tutto dalla famiglia, ma che anche la scuola si faccia parte attiva nella diffusione di un messaggio di questo tipo, ci sembra anche molto importante, Nava, no? Ragazzi, entreranno in troppo poco alla scuola, avranno speso 83 euro, ma avranno tutti le stesse. Certo, il rischio è quello della dispensa, lo so bene, però in tempi di crisi mi sembra che c'è stata una solidarietà degli insegnanti che hanno iperlavorato a produrre dei testi congrui, no? Un'iniziativa forte della scuola che dà anche un messaggio solidale e culturale, e a questo punto una grande soddisfazione di queste famiglie brindisine che con 83 euro affrontano il primo anno di scuola superiore dei loro figli. Lei tra l'altro mi dà, come dire, mi offre la sponda per introdurre di un tema che parleremo, di cui parleremo adesso dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, il tema del libro in formato elettronico. Se ne parla da tanto, ma anche questa è una prassi che non riesce ad essere introdotta, anche perché in realtà poi studiare su internet è un po' più complicato rispetto al libro di testo tradizionale, e anche lì, qualora poi si volessero stampare dei testi dal formato internet, alla fine risultano anche più costosi rispetto ad un libro di testo normale. Anna da Genova, buongiorno, una mamma? Buongiorno. No, io sono una zia, non ho figli ma ho i nipotini. Anch'io Anna, ne sono tanto felice. Infatti, allora, volevo dire che osservando questi libri di testo dei bambini di oggi, siccome io ho lavorato molti anni nella grafica pubblicitaria, noto che sono tutti stampati a 5 colori, quindi con foto a tutti i colori, a volte con colori aggiuntivi, inoltre su carta patinata che è più pesante, che serve a far rendere meglio le foto a colori, però è più pesante della carta ordinaria e più costosa. Quindi diciamo che a mio avviso si potrebbero richiedere collettivamente delle edizioni più economiche degli stessi libri. Mm-hmm. Noi tra l'altro, cioè, io Anna la ringrazio per il suggerimento, non abbiamo neanche gli editori questa mattina in trasmissione perché ci volevamo proprio rivolgere al mondo delle famiglie senza arrivare a parlare del problema dell'editoria scolastica e in questo caso, come dice Anna, della forma a discapito della sostanza. Io so che lo sto un po' pressando, un po' più degli altri, però vorrei sentire ancora il preside Rusconi, perché qui siamo sempre in termini anche di testi consigliati. Secondo lei si potrebbe rinunciare un pochino di più, come dicevo, alla forma, che poi non è detto che vada a discapito, insomma, della sostanza? Ma sì, guardi, io ho viaggiato in molti paesi europei per ragioni di lavoro e dalla Finlandia, che risulta essere il paese all'avanguardia per le capacità degli studenti, alla Francia, alla Germania, al Giappone, eccetera, i libri di testo non hanno quella intelaiatura rotocalchistica che hanno i nostri libri di testo, è uno sciupio vistoso che andrebbe veramente eliminato, però qua sarebbe da chiamare in causa appunto gli editori, cioè c'è questa corsa un po' dissennata al libro di testo patinato che per certi versi fa persino concorrenza, ripeto, ai rotocalchi più raffinati, alla Franco Maria Ricci del che nostro paese. Magari sicuramente rendono più piacevole lo studio, io lo so che una bella cartina in un libro di geografia sicuramente rende l'idea in maniera migliore rispetto ad una cartina in bianco e nero che non ci dà l'idea, insomma, di quello che può essere la composizione di un paese, non so, però se si potesse risparmiare qualcosa anche da quel punto di vista, preside. Per esempio, sono talmente però ricchi, parlo chiaramente non delle letterature o di latino e greco o di informatica, ma storia, geografia, eccetera, sono talmente ricchi di fotografie, di didascalie, eccetera, che sono spaesanti, un po' come tutte le immagini che vediamo sulle strade cittadine. Alla fine uno non legge neppure nessuna pubblicità, proprio perché sono talmente tante, per cui ci si perde in questo mare magnum. Bisognerebbe farli un po' più stringati, per esempio su carta riciclata, è più difficile farli per dispense perché il costo aumenta molto, è stato detto varie volte all'associazione editori, però qua è quello che conta, la concorrenza. Poi il libro, diciamo così, patinato fa anche agio sull'immaginazione agli occhi dell'insegnante e purtroppo questo è un cattivo vezzo che difficilmente riusciamo a estirpare. Insomma, non è detto, d'altronde oggi avanza internet prepotentemente, chissà che non si riesca a trovare, insomma, un connubio proprio in questo senso. Allora, visto che ho introdotto la questione degli ebooks, Alberto da Modena aveva una cosa da dirci a questo proposito. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Alberto. Sì, ci dica. Allora, avete già accennato al problema, però cioè io non riesco a capire dove sia la difficoltà in un periodo, ovviamente una difficoltà economica per gli editori, credo, perché in un periodo dove gli ebooks e gli audiolibri ormai stanno arrivando e c'è anche già la gara a chi farà meglio il lettore di libri, tra Wikipedia o chi per loro, ognuno sta facendo la sua gara, dove sia il problema a realizzare dei libri dei libri elettronici per lo studio. Alberto, io credo che la sentiamo male, la saluto rapidamente. Io credo che la difficoltà stia intanto nel fatto che non tutte le scuole hanno una dotazione informatica adeguata a sostenere anche poi supporti di questo tipo. Si è calcolato, leggo un pezzo che ha scritto la mia collega del Sole 24 Ore, Michela Finizio, che per stampare un libro di 300 pagine a colori, che sullo scaffale costerebbe 15 euro, servirebbero circa 40 euro, per cui bisogna anche tenere presente tutto questo. Non è che tutte le scuole siano intanto dotate di stampanti, di carta, anche quelle sono spese, non tutti i ragazzi sono nelle condizioni di poter studiare su internet perché serve la dotazione informatica, ripeto, per cui Rusconi, torno ancora a lei, poi la saluto definitivamente, ci sono questi problemi immagino da tenere in considerazione, per questo anche l'ebooks, chiamiamolo così appunto nel gergo inglese, non riesce a prendere piede, non può ancora. Beh sì, anche perché il libro poi viene adoperato anche spesso come manuale in classe, quindi è un po' difficile portarsi appresso 28 computer in una classe, insomma. Nelle classi non ci sono i computer, al massimo ci sono scuole che possono avere in qualche classe un computer. Non è la stessa cosa, poi io vedo anche da parte dei miei studenti studiare sul computer, studiare sul materiale stampato, e come diceva prima lei, stampare poi dal computer vuol dire spendere più che se si acquista un libro o cose di questo tipo. Bisogna cercare di miscelare diciamo, le due opzioni, tra quella elettronica e quella invece di stampa di tipo tradizionale. Secondo me, come dice Umberto Eco, il libro tradizionale difficilmente sarà superato nei prossimi 100 anni. Certo, bisogna invogliare anche a utilizzare il computer, ma non certo. pensare che sia una panacea però. E comunque, insomma, ci andremo sicuramente verso un'integrazione sempre più concreta. E allora, qua intanto la puntata avanza, stiamo chiudendo. Io vorrei chiudere con delle indicazioni conclusive, pratiche per le famiglie che comunque adesso sono alle prese con questa spesa che è alta, che è bella impegnativa per molti. Devo lasciar concludere anche Luigi Del Marro della Federazione Nazionale Cartolai, perché abbiamo iniziato a parlare dello Scuola Kit ma non abbiamo concluso. Abbiamo già detto che è un set completo di accessori per la scuola, senza griff ma sicuramente di qualità. Esistono le tre versioni del kit, una per le elementari, una per le medie, una per le superiori. Non si spende più di 20 euro, anzi 19,90 euro. Del Marro, ci sono molte famiglie italiane che lo comprano, oppure la griff continua a tentare, le famiglie non riescono a resistere alle richieste dei propri figli? Tutte le famiglie vorrebbero acquistarlo, ma poi la maggior parte dei genitori cede, diciamo, alle richieste. Certo, e il commerciante che cosa fa? Non può certo insistere. Lo so, però un invito ai genitori è quello proprio di educare i figli a non sentire troppo la pubblicità per questo discorso, ma essere più pratici. Volevo soltanto aggiungere una cosa rapidissima, sì, perché è molto interessante, diciamo, l'intervento della dottoressa Nava sull'iniziativa di Brindisi. Vero. Ecco, devo dire che la Fede Cartolai da 6 anni, oltre che lo Scuola Kit, diciamo, convenienza, ha portato avanti lo Scuola Kit personalizzato, cioè dice agli studenti: guarda, invece di andarti a comprare le cose griffate, magari che arrivano con i disegni del Giappone e via dicendo, comprati, come si è detto prima, lo zaino, l'astuccio, diciamo, di marca ma non griffato, e personalizzalo tu con una serie di piccoli accessori che trovi dappertutto, comprese le cartolerie. Lo puoi dipingere, ci metti le spilline, ci metti le gramatine, e in questo caso lo stilista è lo stesso studente. Nel caso della scuola che diceva Brindisi, si potrebbe veramente fare un discorso di styling italiano, ecco. Quindi volevo dare quest'altro messaggio. Infatti, molto interessante. È che la scuola deve anche pensare ai programmi poi di studio, per cui magari questo diventa un secondo problema, se non terzo, quarto, da affrontare. Diciamo che la scuola forse non si vuole mettere anche in questa posizione di mettersi anche a suggerire che tipo di zaino, che tipo di diario comprare. Però detto questo, c'era un'ultima considerazione di un ascoltatore di Cuneo. Gianluigi, non riesco a farlo intervenire perché tra un po' devo salutare. Mentre libri cartacei rimangono per anni, dice Gianluigi, quelli elettronici rischiano di essere surclassati da altri supporti. Anche questo è un problema. Volevo far concludere Angela Nava, con la quale abbiamo iniziato, perché io immagino che per essere presidente del coordinamento genitori democratici sarà anche una mamma, non so di quanti figli che vanno a scuola. Nava, due raccomandazioni alle nostre famiglie per poter affrontare serenamente, anche dal punto di vista economico, questo inizio d'anno scolastico 2009. Aver paura del mercato dell'usato, però portarci anche i propri figli, perché siano consapevoli della scelta. La ricerca del libro può essere una ricerca condivisa. B, chiedere che la scuola ci aiuti, per esempio, nel temperare un po' i bisogni che non esistono, quelli voluttuari, e che sia per esempio la maestra o il professore a dare un'indicazione di zaino sobrio, ottimale, che contraddistingua quei bambini, proprio quei bambini, ripeto, come senso di appartenenza, altrimenti tutti saremo più soli. Terzo, una questione richiesta che va oltre e che va al Ministero. Esisteva anni fa un osservatorio su libri di testo presente al Ministero, in cui le parti, librai, piccoli distributori, sindacati, associazioni, genitori e studenti, sedevano ad un tavolo con delle proposte sui libri di testo. I libri di testo, specie per le superiori, sono molte volte dei libri per gli insegnanti, vale a dire, è inutile che siano così ricchi di essere renderli più fruibili per i ragazzi. Nava, devo salutarla, ma abbiamo capito perfettamente questo messaggio. Io vi ringrazio, ringrazio Luigi Del Marro, Mario Rusconi, Angela Nava, Piero Fichter di essere stati con noi. Con il consueto 45 secondi di ritardo chiudo Salvadanaio, ci risentiamo domani. Buona giornata a tutti.